Sono in collegamento telefonico con Cinzia Pietribiasi, autrice e protagonista dello spettacolo Padre d'amore, Padre di fango. Ciao Cinzia, benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao a tutti, grazie. Allora Cinzia, parliamo un po' di questo spettacolo Padre d'amore, Padre di fango, che sarà in scena giovedì 18 novembre alla Teliersi. Ci vuoi raccontare un po' di che cosa parla lo spettacolo? Allora, lo spettacolo è un grande omaggio a una generazione scomparsa, la generazione dei 20-30enni, che hanno appunto avuto 20-30 anni negli anni 80. Tra questi ragazzi c'è mio padre, che è ancora vivo, adesso parlo al passato, ma in realtà c'è ancora. Mio padre, che appunto è stato tossicodipendente in quegli anni. Ho voluto raccontare la storia di lui e di quella generazione vista con gli occhi della figlia, una figlia che all'epoca aveva 8-9 anni e vedeva un po' suo padre, tutti gli amici, tutte le persone che circuitavano attorno a questa famiglia un po' disastrata, e con gli occhi di appunto di questa bambina, senza giudizio, senza retorica, senza anche senza rabbia in realtà, perché c'è un sacco d'amore dentro, descrive un po' questo rapporto difficile, un rapporto a tre, perché è un rapporto tra un padre, una figlia e la sostanza, insomma, e l'eroina. Sarà anche una narrazione multimediale. Che cosa vuol dire questo? Che cos'è uno spettacolo multimediale? Allora sì, sostanzialmente è uno spettacolo di narrazione, in quanto io sono in scena e narro questa vicenda. In realtà narro la vicenda di Sara e Sergio, è chiaramente la mia storia autobiografica, ma è rivisitata, rivista, pensata con altri nomi. Quindi c'è un'attrice in scena che narra, che racconta, ma è multimediale perché insieme alla narrazione vengono utilizzati vari altri linguaggi. C'è due webcam in scena che trasmettono un video in tempo reale. Il primo video proviene da un tavolo su cui io sono e agisco. È un tavolo con una grande carta geografica, una carta geografica pre-89, quindi pre-caduta del muro, quindi con un'altra geografia rispetto adesso. E su questa carta geografica si muovono degli oggetti. Si muovono delle paperelle, dei dinosauri. I dinosauri chiaramente sono un riferimento a questi giovani scomparsi, finti appunto, e altri oggetti, altre fotografie, e queste cose molto piccole che io muovo e a cui do voce vengono viste dall'occhio di una webcam e proiettate sul grande schermo. Poi c'è un'altra webcam sul palco dove, che a un certo punto viene azionata per duplicare la mia figura che si vede appunto, che si muove sul palcoscenico, e poi ci sono dei video in parte di repertorio. Utilizzo un'inchiesta della RAI dell'82 che è andata appunto cioè un approfondimento sui giovani tossicodipendenti di quegli anni a Verona, che era la più grande piazza di spaccio allora in Italia, e poi video di famiglia, quindi home movie, che vengono ripresi e rimontati, e accanto a video poi girati ad hoc apposta per l'occasione. Questo quindi sostanzialmente narrazione multimediale vuol dire questo. Ecco. E tra l'altro sul palco in scena ci saranno anche altre importanti figure di donne oltre a te che ti accompagneranno. Beh sì, mi accompagnano idealmente, nel senso che diciamo che ci sono tutte le figure femminili della mia famiglia, sotto forma di piccoli animaletti. È un po' un ripercorrere un gioco di bambina, no? Questo tavolo dove si muovono questi oggetti. E allora queste figure di questa nonna, questa bisnonna, che è stata fondamentale nella mia storia e nella storia di Sara, appunto, che è un piccolo gufo che è sempre lì con me. E poi c'è la nonna invece, che è sempre tutte figure della parte paterna della famiglia, che è una piccola mucca in quanto mia nonna faceva la macellaia e racconto tra l'altro anche delle storie della macelleria di allora, insomma. Quindi sì, ci sono queste importanti figure di donne che accompagnano la crescita di questa bambina. Io, Cinzia, ti ringrazio veramente per averci fatto entrare di più nel mondo del tuo spettacolo Padre d'Amore, Padre di Fango, e ricordo ancora una volta che sarai in scena questo giovedì 18 novembre all'Ateliersi. Grazie ancora, Cinzia. Posso aggiungere, scusami, certo, posso aggiungere un'ultimissima certo, cosa importante? Come no? Che c'è anche un aspetto olfattivo di cui non abbiamo parlato, che secondo me è interessante da dire agli ascoltatori, perché ho lavorato nella costruzione di questo spettacolo, ho lavorato con un maestro profumiere di Bologna, tra l'altro, che a cui ho raccontato i miei ricordi degli odori delle case dove ho abitato. Sapete che l'olfatto è una dei nostri sensi, come dire, più primordiali, no? E ho raccontato questi odori che io avevo in testa di 5 case. E lui è riuscito a realizzare 5 essenze, ispirandosi a queste mie parole, e questi odori saranno dati come foglie di sala al pubblico che verrà, in modo da portarsi a casa un piccolo cadeau di questa storia. Questi odori vengono dati sotto forma di muglietti, quindi di pezzettini di carta imbibiti di essenza, che, insomma, che è possibile poi annusare sia durante lo spettacolo che poi dopo. Che meraviglia, veramente mi sembra un'idea molto originale e veramente bella. Grazie ancora, Cinzia. Grazie a te, grazie a te, grazie a voi. Dai, buon proseguimento.